24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Se lo pone Brescia sul Parlamento italiano, allora ce lo dobbiamo porre anche sulla regione che ha eletto la Serracchiani e su lei che ha eletto il sindaco di Firenze, o no? Perché è lo stesso problema, la degenerazione delle preferenze. Non ci arrampichiamo sugli specchi, sulle preferenze. Vi prego. Io chiedevo che lei chiarisse il suo pensiero. È chiarissimo. Gli specchi non mi arrampico, che da uno ho fatto la scelta tattica di mettermi qui per andare a Brescia, mi sono levato la camicia. Però si è appassionato e quindi non va più. Si è appassionato, la vedo appassionata. Non si può arrampicare perché da un'ora che ho messo il ginocchio. Vabbè. Quanto ti sei ingrassato? Va bene. Non mi arrampico a nessuna parte. Va benissimo. Vabbè, iniziamo così con Matteo Renzi che riceve l'SMS durante la riunione in streaming e dice quanto sei ingrassato. Ma chi è che avrà mandato questo SMS a Matteo Renzi, eh? Quanto sei ingrassato, quanto sei ingrassato. Questo è il clou di una riunione a definire noiosissima, ma non ho visto manco mezzo secondo. Ma forse un centesimo di secondo. Robe più inutili che esistano di queste solo in Italia. Solo in Italia si discute di queste robe in streaming, la legge elettorale. Robe che appassionano solamente Mario Adinolfi, che saluto, buon Marione. Ma solo tu l'avrai vista la riunione. Certo, non capisco poi niente sulla bellezza politica, sul bello del nulla. Ma scusa, una partita bella di calcio qual è? Quella che finisce 0-0, partita perfetta, senza magari un tiro in porta. È la stessa cosa. Ieri hai visto una bellissima partita di calcio? No, non l'ho vista, infatti, perché non l'hai vista, male, molto male. Tu che l'hai vista, vabbè, adesso ci racconterai tu. Mamma mia, ragazzi, che noia mortale questa roba. C'è con Renzi, che infatti anche Renzi dopo un po', a un certo punto, mentre parlava, ha detto: mi è arrivato un SMS a dimmi che sei ingrassato. Cioè, questa è la cosa più interessante. A un certo punto si annoiava anche lui, dai, diciamolo francamente, si annoiava anche lui. Va bene, questo è 24 mattino, è l'ultimo giorno della 63esima settimana decisiva per la riforma elettorale, per l'appunto, nonché per l'abolizione delle province. Queste ormai le mettiamo così in carrozza perché è una farsa incredibile. È l'ultimo giorno di lavoro di Peter Bescapè in regia. Ed è non l'ultimo giorno della settimana, ma Giorgino De Luca starà qua anche con noi la settimana prossima. Va bene, apriamo il Parlamento quando sono le 6:33 minuti. Forza italiani! Mi dicono che non devo gridare troppo a quest'ora. Caffè volentieri a tutti quanti. Che me ne immagino gli italiani ci ascoltano molti sul letto, svaccati, ancora assonnati, gente che si trascina come zombie verso il bagno. Oh, allora, forza, dai, che bisogna produrre lo schema Allegri. Adesso ci arriviamo. Saluto intanto Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. Buongiorno Maurizio, no, Maurizio sei tu. Cioè, buongiorno Maurizio, mi hai detto. È un ritorno in cuffia, non hai capito bene. Va bene. È l'eco. Eccolo qua. No, ma io però adesso ne devo approfittare perché ho a tiro Mario Adinolfi. Marione, quanto sto ridendo da tre giorni? No. Ma quanto sto ridendo? Allegri. Ve le ricacciamo tutte in gola. No, ma guarda, premessa, vincerete i prossimi 15 scudetti consecutivi, le prossime 5 Champions League consecutive, ma per ora rido come un matto, rido con la fidanzata d'Allegri che scriveva Juve merda su te. Sto soffrendo veramente tanto. Dai, l'inno della Juve. L'inno della Juve, forza, dai. Mamma mia ragazzi, che risate. È sempre la storia di un grande amore, però sì, la storia di un grande amore. Come voi va? Queste cose non le potete capire. Come va? Ti piace? Non male. Ti piace Allegri? Io tipo la maglia, tipo la maglia. Mamma mia, ragazzi. Come? Cambiata anche la maglia. Sì. Maurizio, Maurizio è un milanista un po' così sfumato. Ma no, sì, ma no, ma Tortorella è un. Se cosa, se come ti definiresti, un milanista agnostico? Come, sì, come? Sì, soprattutto ignorante di calcio. Però, però la battuta che ho sentito mi è parsa carina. Cioè? Quella che è una squadra che ha un portiere che si chiama Buffon, un giocatore che si chiama Pirlo, un allenatore che si chiama Allegri. Vabbè. Fa un po' ridere. Fa un po' ridere, vabbè, ma la Juve fa ridere a prescindere, ma questa vicenda, vabbè, Marione, vuoi dirci qualcosa? Cioè, sei in lutto. Lo voglio dire ai tanti, ai 15 milioni di voti bianconeri, sì. Forza ragazzi, forza. Tranquilli. Forza, tranquilli ragazzi. Ragazzi, abbiamo superato il peggio. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Passerà. Passerà. Non finite, perché il calcio è anche questo, dovrebbe, abbiamo, ci hanno regalato tante gioie ragazzi, però si soffre anche con la maglia bianconera. Diciamo tranquilli. Non finite quest'estate, tanto l'ombrellone vi rompono le scatole, vanno infilato l'ombrellone lì, vabbè, aspettate e qualcosa succederà, tranquilli. Intanto si ride, tranquilli, tranquilli, il messaggio di Adinolfi è questo, tranquilli, anche Allegri passerà. Intanto lo vogliamo sentire Allegri? Sono fortunato e con Andrea non ci sono mai stati assolutamente problemi e mai ho messo in discussione le qualità di Andrea, anche perché veramente mi dà una bella. Questa è epocale, a dire. Questa è epocale veramente. Allegri. Perché mi dici questa? Almeno questa risparmia gliela, Allegri, ma almeno questa risparmia. Allegri non, ma è mai, lei, dicevi, ho toppato perché sono un coglione, questo doveva dire. Oh, senti questa, senti questa, i tifosi. Noi Allegri non lo vogliamo, così lo hanno ragazzi, accolto. Ho detto tranquilli. Non siamo i romanisti. Tranquilli. Come si ride, come si ride. Allegri siamo che dice. Siamo i tifosi della Lazio con lo dito. No, noi non siamo i tifosi della Lazio con lo dito. Noi siamo razionali, calmi. Vabbè. Allegri che dice non ho mai discusso Pirlo. È una delle robe più incredibili degli ultimi 5 anni. Vabbè. Se mi interrompo un attimo, Tamizano, sai Alessandro che io sono totalmente ignorante, ma mi è parso di capire dal tono e dall'accento che è livornese. È livornese Allegri, certo. Ah, certo. Sta sulle palle anche a Tortorella di colpo. Anche al pisano Tortorella. Debolissimo. Vabbè, anche al pisano Tortorella improvvisamente sta sulle palle. Vabbè, dovevo fare questo ingresso, come dire, Marione. Saluriamo il mister Antonio Conte, grazie. Ti ricordi che un tempo qui a questi microfoni io voglio Conte. Se Conte viene al Milan non mi chiamare mai più. Quest'anno non sarà possibile. Adesso abbiamo Inzaghi. Non è che aspettiamo, bella, facciamo bella, fallire bella, anche Inzaghi prima. Culo, ma Inzaghi. Vabbè, ci divertiremo. Vabbè. Rigore per il Milan. Va bene, dovevo fare questa intro, come dire, sul calcio, perché, come dire, il lutto da elaborare di Mario Adinolfi dovevo sfruttarlo. Qua, ragazzi, c'è da dire che in realtà oggi tutti i giornali, immaginate con cosa aprono. Questa tragedia di cui non si conoscono ancora bene i contorni, anche se la stampa, la tragedia ovviamente dell'aereo abbattuto, si può dire così tranquillamente, pare sia stato abbattuto, la stampa è quella che è la notizia più importante, cioè ci sarebbe una telefonata dei filorussi che dicono abbiamo colpito un volo civile, disperati tra di loro, no? Intercettazioni. Che può succedere a livello internazionale? Non lo so, si parla già di grande gelo tra Obama e Putin. Maurizio Tortorella, che cosa ci porterà questa cosa al di là della tragedia immane di persone che andavano in vacanza, 298 morti? L'unica speranza, anche se è labile, è che questo disastro terribile possa portare l'Unione Europea ad agire finalmente un poco e a fare quello che finora non ha fatto, e cioè altro che sanzioni, qui devono intervenire, prendere i due contendenti e farli sedere seriamente a un tavolo, come è inevitabile, perché non si può andare avanti in questa maniera assurda. No, anche Obama effettivamente, come dicevi, ha dato segnali di interventismo che finora non c'erano stati. Lo so, ma interventismo, ma qui la situazione è davvero difficile. Sempre la stampa con Jena dice anche questa Europa, caro Mario Dinolfi, noi ci stiamo arrovellando su una poltrone da ministro dell'esteri europeo, questo ma è la stiamo arrovellando, ma ci stiamo fermando e dando la balla al 30 agosto, che è una cosa incredibile. Sì, per una poltrona. Nessuno ha sottolineato abbastanza la notte della vergogna di due sere fa, che è una cosa incredibile, ma davvero è qualcosa di... Poi, oltretutto, lì il diavolo veramente ci ha messo la coda con la storia dell'aereo abbattuto. E rispetto alla tua analisi non avrei tutta questa confidenza sul ruolo europeo, proprio per quello che sta accadendo. Cioè, l'Europa non è in grado neanche di decidersi gli incarichi, figuriamoci se è in grado di decidere sul conflitto russo-ucraino. Mi consola, diciamo, un po' di più il fatto che nell'aereo ci fossero, è questa tristissima da dire, ma è così, 23 cittadini americani, e gli Stati Uniti devono muoversi. Dici che questo purtroppo, come tragico segnale, potrebbe spingere a dire no, adesso se toccate i cittadini americani. Anche poi se non solo, io ieri ho seguito un po' di informazioni, ormai la seguo direttamente sui canali americani, CNN, Fox hanno fatto 10 ore, 12 ore di diretta consecutiva con speciale assoluto, mentre da noi c'avevano lo streaming. Ti discuteva solo di questo in maniera estremamente allarmata. Poi sai, quando toccano i cittadini americani cambia molto nello scacchiere, anche la pressione psicologica sulla leadership americana. Ecco, io confido che per una volta Obama da questo punto di vista sia davvero risoluto e riesca, se è confermata, e pare sia confermata, l'origine filorussa dell'abbattimento, allora qui può succedere qualcosa. Ma tanto da quel punto di vista insabbieranno tutto. Ma ti immagini le scatole nere verranno mandate a Mosca per l'analisi? Ma ti immagini che tipo di indagine ci sarà su questa inchiesta? Però il livello di pressione che ora Obama può esercitare su Putin ha un elemento più forte da essere preso in mano, e Obama è costretto a prenderlo in mano dalla pressione interna. Di solito la pressione interna sui fatti internazionali in America è molto blanda, anzi si dice sempre ormai lasciali correre. Assolutamente. Invece questa cosa forse modifica un po'. Tra l'altro la tesi più clamorosa, ovviamente, che proviene da Mosca è anche Putin viaggiava su quella rotta, e quindi da Mosca il rilancio erano invece gli ucraini che hanno cercato di abbattere, in una vicenda Tortorella, che è messa così ricorda quasi la vicenda di Ustica, no? Hanno cercato di abbattere l'aereo di Putin. Incredibile, però insomma staremo a vedere. Certo che qualche segnale ci deve essere, ma poi voglio dire, se è Europa, come scrive Jena sulla stampa, è anche questa Europa, cioè non è che adesso deve intervenire Obama, deve fare il risoluto Obama con Putin, ma voglio dire, l'Europa che fa? Bruxelles che fa? Maurizio, ma che fanno? Abbiamo una guerra alle porte, nessuno fa. Dicevo, è una follia totale, ma l'insipienza dell'Unione è stata lì. Per questo dicevo che è impossibile che non facciano nulla a questo punto, cioè veramente diventa una situazione di ritorno. Ma è chiaro. Il problema è manca la tolda di comando, capisci? Tu hai una navicella che dovrebbe intervenire in maniera prontissima senza tolda di comando. Però questo si è detto tante volte, non è tanto una questione di poltrone, non esiste una politica estera comune europea. Non esiste neanche un responsabile della politica estera comune, tu capisci che è assolutamente impossibile immaginare ora un intervento deciso. Sì, ma anche se ci fosse, cosa fa? Non esiste un esercito comune. Dalla personalità, queste cose sono. Qui gli interessi sono enormi, dobbiamo saperlo. Gli interessi sono enormi, la partita si gioca sui temi energetici, che sono temi di un delicato, dal punto di vista economico, valori colossali. Allora, da questo punto di vista le leve di intervento ci sono, non è che non ci sono leve di intervento, bisogna saperle azionare e volerle azionare. L'Europa ha bisogno di avere personalità di livello e di caratura per poter azionare quelle leve. È chiaro che questo implica anche una riflessione sul ruolo, per esempio, di Renzi, che dice devo per forza mettere la Mogherini, cioè questo è chiaro, è una cosa, no vabbè, ma bisogna ragionare, cioè, anche lì, no, ma anche lì, ma l'accanimento non si capisce, cioè sembra, adesso pare che Renzi appunto si sia arrabbiato contro la burocrazia europea, per cui ha detto gliel'ho detto a Farron, poi la prossima volta ci faccia risparmiare sui voli di Stato e ci mandi l'SMS, e quindi adesso ce l'ha in Europa, pare lo chiamino Mister 40%, e non certo in modo elogiativo. Maurizio, adesso non so, non ti sembra che Renzi si stia anche un po' incaponendo su alcune cose, come dire ho deciso così e la Mogherini, ma chi se ne si sta evitando anche la minaccia, perché era una minaccia che aveva fatto due giorni fa, poi smentita, su vabbè, se non volete la Mogherini vi mollo D'Alema, sì, il quale poi ha risposto con un SMS divertente: stai facendo di me l'uomo nero, anzi l'uomo rosso. Questo non è bello. Anche se lui smentisce, appunto, dice D'Alema non è mai stato in campo. Ma sì, ma questione veramente di bassissimo livello rispetto alle cose importanti per cui l'Europa dovrebbe decidere. Assolutamente, è tutto fatto con ottica italiana, anche perché a lui, a Renzi, servirebbe un rimpasto in questo momento per... probabilmente per scalzare dal Ministero dell'Interno Alfano e metterlo agli esteri, quindi è tutta una visione miope, estremamente personalistica e locale, provinciale, non è così che si affrontano i problemi. E d'altronde un po' di provincialismo ce l'abbiamo, anche sui giornali, lo streaming, ripartiamo da qui, Mario Dinolfi, lo streaming è bello. Lo streaming è bello. La legge elettorale è bella, il dibattito sul nulla è bellissimo. Ah, bellissimo, bellissimo, quasi come il dibattito su Allegri, guarda, ti dirò. 24 mattino. Allora, Milano, ho contato fino a 3. Maroni è stato indaghizzato alla trozza del secondo cerchio magico leghista. Ora aspettiamo il terzo cerchio magico di Salvini e le premesse ci sono tutte. Ma la tua moralizzatrice lussana griderà al solito complotto della magistratura e per dirla la Totò e noi paghiamo, io, te e tanti altri. Buone vacanze, Milan. Buongiorno Milan, chiamo da Castel Volturno dove sono in vacanza. Effettivamente qui ci divertiamo moltissimo, domani andremo a un rave day con le cover dell'orchestra Casa Dei e balleremo quasi fino alle 9. Ci divertiamo molto e la salutiamo. Alino, il nostro presidente ci ha regalato il nostro primo rinforzo per la stagione a venire, cioè Allegri alla Juventus. Che colpo basso, che matacchione. Milan, è tornato lo schema Allegri, dai, dai, dai! Milan, bello il commiato di Conte in televisione. Si è dimenticato di ringraziare gli arbitri per questi 3 anni vincenti. Ma sarà stato un lapsus. Comunque alla Juve adesso hanno ben poco da stare Allegri. Milan, per me puoi stare in vacanza tutto l'anno, sei molto antipatico. Buona giornata. Alessandro Milan, il giornalista biondo che fa impazzire il mondo. Cosa se poco? vabbè, c'è quello che mi vuole far stare in vacanza tutto l'anno, Mario Dinolfi. Ma bella quella di Conte sugli arbitri, Non ma è male. No, mamma, che basso profilo. Siamo passati sopra con Rullo Confessore. L'arbitro si è dimenticato di ringraziare l'arbitro. Gli arbitri. Bella quella, mi è piaciuta. Bravo, caro. Comunque sono cotti i tuoi ascoltatori, figli, sono proprio ormai arrivati. Sono arrivati? Come te, ormai arriva a fine stagione, si vede, siamo ai saldi pure della serie dei telefoni. Ma va. Puttanate a go-go, proprio, no. Vai. No, vuoi lanciare il tuo grido di battaglia? No, per carità, è troppo persino per loro. No, quindi non lanciamo il grido di battaglia. I radioascoltatori di Milan sono la frutta, andate a mare, riposatevi, lasciatevi, non telefonate più. Telefonate! Forza, segreteria a palla, segreteria a go-go. Presa pure con la Lussana, ciao Aurora. Sì, grande Aurora, che è stata ospite l'altro giorno, ha detto che lei è per l'amore orgiastico. Fantastico. Vabbè, allora sentite un po', no, chiudiamo la questione della Mogherini. Oggi c'è sulla stampa, stavo sfogliando adesso, una pagina sulla Mogherini, la donna che divide l'Europa. Una pagina sulla Mogherini, ma io... Vabbè, sentiamo Pannella, Marco Pannella, su questa vicenda. È tabù andiamo a fregare una a fare una inevitabile figura da culo adesso a Bruxelles, dappertutto, eccetera. E tutti chiedono, ma tra l'altro come mai, che cosa, perché è stata eliminata la Emma Bonino? Eccolo lì, l'ossessione di Pannella, e vabbè, l'Emma Bonino, che l'hanno tolta dal ministro degli esteri. Allora, il tema che volevo porre è questo. Caro Maurizio Tortorella, pare che Silvio Berlusconi abbia detto: se anche oggi mi condannano, pare oggi arrivi già al giudizio in appello caso Ruby, le riforme vanno avanti. Ma ecco, la domanda che faccio a tutti ma perché è così attaccato alle riforme? Addirittura no, da dire la condanna, vada avanti le riforme. Maurizio, secondo te? Beh, sai, voglio dire, per 20 anni lui, secondo i favorevoli, ci ha provato senza riuscirci, secondo gli altri non le ha fatte e basta le riforme che avrebbe dovuto fare indubbiamente, e purtroppo molte effettivamente non le ha fatte. Vederle fare un altro forse potrà anche costargli ed essere faticoso da accettare, ma quantomeno partecipare al momento delle riforme è importante, da statista. Però io ho questa sensazione che ci sia un qualcosa. Io questo patto del Nazareno qualcosa vorrei capirlo. Marione, secondo te che c'è in questo patto? Perché c'è, Berlusconi? Con molta chiarezza, un elemento: il 18 gennaio, quando viene stretto il patto del Nazareno, Berlusconi punta su Renzi perché lo riconosce come proprio erede, di fatto, insomma, politicamente. Non, l'erede non ha mai avuto, né è riuscito a creare in Forza Italia, e poi è l'unico che può variare il quadro politico rispetto alle proprie condizioni, diciamo, di difficoltà giudiziaria. Sì. Se c'ha mezza possibilità di arrivare mai a una grazia, la mezza possibilità è l'attuale, è il quadro seguente. Cioè che Renzi imperiale del post 25 maggio generi una presidenza della Repubblica morbida, diciamo così, che possa arrivare a una decisione di appeasement che abbia come cardine anche la grazia a Berlusconi, che sia però ovviamente una grazia in via d'uscita, cioè Berlusconi con l'onore delle armi esce dalla dimensione politico-parlamentare, sì. E però in cambio la grazia, come non gli fa fare 80 anni, quindi è questa la questione. Ma cambia, dai, il presidente napolitano, arriverà un nuovo presidente e arriva la grazia. Non dico che c'è questo come patto, c'è questo come unica possibilità. Ma uno come fa a garantirlo? Cioè, com'è che Renzi va? Glielo garantisce, e allora però è l'unica speranza che hai, perché con questo quadro il napolitano al Quirinale non ce l'ha avuta, anzi è stato fregato 10 volte. Adesso dice: cambia il quadro, io mi dimostro leale, come conseguenza mi aspetto. Ora, non conosce bene Renzi da questo punto di vista, che prima incazza e poi non paga mai. Che fa? Maurizio, hai capito Adinolfi? No, ma ha ragione, sono perfettamente d'accordo. Se esiste questa speranza, è una speranza mal riposta, come è evidente. Non credo neanche che obiettivamente Renzi possa minimamente intervenire sull'ordine giudiziario. Questo certo, questo è ovvio, però le avrà detto guarda. La grazia c'è, ragazzi, è l'unico motivo, anch'io perché Berlusconi dovrebbe andare a fare un accordo così, cioè, e difenderlo, blindato, contro tutti se non ha un tornaconto. Sacrifica Forza Italia su questo. Certo. Il grande incasso di Renzi è il sacrificio di Forza Italia, infatti i parlamentari di Forza Italia dicono: stai sacrificando noi. No, ma se è messa così, Maurizio, è chiaro che è un azzardo, cioè non è che Berlusconi può avere nessuna sicurezza, ma se mi posso giocare mezza carta per avere la grazia, devo fare così. Potrebbe essere politicamente una mossa? Ma sì, secondo me non va da nessuna parte, comunque. Non arriverà da nessuna parte. No, anche perché secondo me Renzi difficilmente potrà mettere, come dice Adinolfi, un presidente, potrà proporre o indurre alla nomina di un presidente della Repubblica morbido, non mi ricordo esattamente l'aggettivo che ha usato Adinolfi, ma anzi, io temo che il prossimo presidente della Repubblica sarà un presidente duro. No, se mai più vicino a quell'ala del suo partito, cioè del PD, che ha altre origini. Cioè. Ah, cioè PDS. Il prossimo presidente della Repubblica sarà Dario Franceschini. No! Sì. No!

Sono le 8:18 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, quando si parla di sicurezza nelle nostre città, questo è il tema che vogliamo affrontare, la sicurezza nelle nostre città. Ovviamente è sempre molto difficile tirare le fila e trattare il tema con dei freddi numeri, con le statistiche, perché parliamoci chiaro, tutto è ovviamente relativo e soggettivo. È chiaro che se uno ha subito un furto in un appartamento, un'aggressione, una rapina, un borseggio, penserà che delle statistiche non gliene frega nulla, avrà la percezione di che le proprie città, le città in cui si vive, siano delle città totalmente insicure, abbandonate al degrado. Ma cerchiamo invece di affrontare la domanda: sono sicure le nostre città, le città in cui viviamo, con una certa razionalità, con qualche numero? Intanto la domanda la pongo a voi, cari ascoltatori: vi sentite sicuri nelle città in cui vivete? 800 24 00 24. Se non vi sentite sicuri è perché dove identificate il potenziale rischio per l'insicurezza? Ditecelo e chiamateci. Intanto partiamo appunto da alcuni dati che ci aiuterà a capire Marco Dugato, che è ricercatore di Transcrime, cioè un centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale della Cattolica di Milano e dell'Università di Trento. Buongiorno Dugato. Buongiorno. E benvenuto. Allora, intanto vogliamo sfatare un mito, per esempio. Io parto da un dato: voi avete detto in questa ricerca che il 55% degli intervistati che escono al buio si sentono sicuri. Uno su due è un po' pochino, forse, no? Ma è una questione di percezione oppure è un rischio reale quello che c'è nelle nostre città? Esatto, allora guardi, questi sono dati che vengono da delle indagini fatte dall'Istat, che vengono fatte periodicamente, e quella domanda è una domanda classica a cui si cerca di andare a recepire come le persone si sentono, qual è il loro grado di confidenza, di fiducia nell'uscire fuori la sera. In realtà è un dato che sconta molto l'elemento, appunto, come diceva lei giustamente, della percezione, cioè molto spesso il fatto di sentirsi sicuri è non in parte, ma non sempre, non del tutto collegato con la reale situazione di sicurezza che le persone poi effettivamente, il rischio che effettivamente c'è. Certo, per esempio il primo mito da sfatare sono gli omicidi sono in calo in Italia rispetto al passato, ci può dare qualche dato? Sì, assolutamente, noi quello che vediamo è che soprattutto rispetto agli anni 90 e ancora prima rispetto agli anni 80 c'è un trend discendente di diversi anni sugli omicidi, che sono nettamente in calo la situazione, ma in generale questo riguarda un po' molti dei reati, chiamiamo cosiddetti violenti, o i reati contro la persona, che sono sostanzialmente o in calo o costanti ormai da diverso tempo, da diversi anni. Invece quelli che aumentano, mi sembra, sono i crimini, non so, i furti, i borseggi, le rapine, ma quindi immagino anche le aggressioni personali per borseggi, questi aumentano molto? Sì, anche qui innanzitutto c'è da distinguere, però abbiamo un trend di lungo periodo, sempre anche qui confrontandoci rispetto per esempio agli anni 90, dove abbiamo assistito a un calo molto forte della criminalità in Italia, che poi è un trend seguito a molti dei paesi occidentali in realtà, quindi soltanto negli ultimi due o tre anni, forse anche in parte legato alla situazione di crisi economica, abbiamo avuto una ripresa che però, come dire, ci porta su livelli sicuramente inferiori ancora rispetto a quelli che c'erano diversi anni fa. A parte per qualche tipo specifico di reato, per come esempio? I furti in abitazione, per esempio, che hanno invece un trend da diverso tempo in aumento. Ma poi li vedremo nello specifico. Cercheremo di capire con lei, anche che starà con noi fino alle 9, città per città, quali città sono più sicure, quali reati sono più comuni di altri. E certo, quello dei borseggi, delle piccole rapine, delle aggressioni è un problema che ha riguardato anche una città per la quale c'è stata una grande polemica di recente, vale a dire Firenze. Ne saluto il sindaco Dario Nardella. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Grazie per essere con noi, perché è finita sulle prime pagine, addirittura il giornale ha visto il titolo di settimana scorsa: assalti rom ai treni delle vacanze, no? Alla stazione di Firenze. Che effetto gli ha fatto leggere quel titolo? Beh, intanto mi sono sentito, diciamo, da un lato anche offeso, perché l'immagine di Firenze come una città assalita è un'immagine sbagliata, assolutamente, inviterei chiunque a venire. Una città tuttavia anche che non è indifferente o intollerante come altri pensano di dipingerla. Da sempre Firenze è una città accogliente, noi nell'ultimo anno abbiamo accolto 1300 profughi, 300 bambini, in un periodo, vorrei ricordarlo, drammatico come quello che stiamo vivendo in Italia ora, il numero dei profughi è arrivato a 75.000 dall'inizio dell'anno e potrebbe crescere oltre 100.000 alla fine. Sì. Di fronte a questo sono stato tra i primi a denunciare però un problema vero alla stazione, di degrado alla stazione di Santa Maria Novella, insopportabile, intollerabile, perché vedi Milan, il concetto di sicurezza è molto generale. Se io vado su Google e scrivo sicurezza, mi esce sicurezza sul lavoro come prima cosa. Chiaro. C'è la sicurezza stradale, c'è la criminalità organizzata. A me piacerebbe parlare più di legalità, perché quando si parla di degrado non siamo ancora nel campo della sicurezza vera e propria, ma siamo in un ambito che, se viene trascurato, allora si aggrava e può diventare un problema di sicurezza. È chiaro, ma la decisione che c'è stata nei giorni scorsi e che immagino lei avrà considerato positiva e giusta è quella di mettere delle transenne per impedire, perché cosa succedeva? Cioè che le persone che scendevano dal treno, stavano salendo sul treno in quello scambio di bagagli, scende, sì, sale, venivano letteralmente aggredite fisicamente, cioè come dire, in quel parapiglia poi si cerca come al solito di rubare una valigia, un portafoglio, eccetera. Sì, praticamente sia sui treni che ai binari queste persone, soprattutto Rom, si avvicinavano importunando i clienti, i passeggeri, con anche tentativi di molestie, con l'intento di chiedere soldi. Poi sono situazioni è anche difficile da classificare come veri e propri reati, come mi è stato spiegato dalle forze dell'ordine. No, chiaro, perché siamo sul confine. Sì, esatto. Tant'è vero, guardi, la cosa assurda, un cittadino mi ha appena scritto stamattina che alcuni di questi si presentano con l'avvocato, perché nel momento in cui un poliziotto o un agente di pubblica sicurezza prova a fermarli, loro si ribellano anche e sostengono di essere limitati nei loro diritti. Ma mi scusi, un sindaco che può fare? Giustamente lei ha trovato il tema della legalità, se si ricorda c'era tutta la questione dei sindaci di sinistra e della legalità, c'è stato un dibattito, allora, ecco, qualche anno fa. No, guardi, la sinistra non è né la legalità non è né di sinistra, no, né è di chiaro, è di tutti. È un principio e va fatto rispettare. Ovviamente i sindaci sono una parte dei soggetti praticati, anzi la pubblica sicurezza spetta alle autorità dello Stato come la polizia prima di tutto, e nelle stazioni paradossalmente non è che il sindaco può mandare i vigili urbani, perché siamo in un territorio privato, le stazioni sono di proprietà di Ferrovie dello Stato, cioè non è che Ferrovie dello Stato può solo prendere il biglietto dei infatti clienti. Le transenne le hanno messe le ferrovie, esatto. Cioè, è stata allora io mi sono rimboccato le maniche, sono andato a parlare all'amministratore delegato di Ferrovie, tra l'altro è stato anche molto cordiale, disponibile, ho detto: qui non se ne esce, anche perché il prefetto di Firenze a più riprese ha fatto appelli. Quindi Ferrovie installerà delle misure fisse nella stazione di Santa Novella che filtrano l'ingresso dei passeggeri che siano muniti di biglietti. Il giornale ha usato un termine barriere anti-rom, francamente mi sembra, diciamo, esagerato. Sì. Non si tratta di fare barriere, qui non è che dobbiamo fare razzismo, nella maniera più assoluta, e non è che dobbiamo fare barriere anti qualcuno. No, anti chi vuole rubare. Bravo, e ci sta tutto, voglio dire. Dobbiamo garantire la legalità. Allora, visto che gli uomini delle forze dell'ordine non sono sufficienti, quello che ho chiesto e che ha chiesto anche il prefetto è quello di introdurre delle misure fisse nelle stazioni. Sì, quello che guardi, a Milano tanti anni fa alla stazione centrale c'era il filtro con i biglietti, poi è stato tolto e adesso la situazione ovviamente da questo punto di vista vuol dire dentro tutti, però le chiedo, a me quello che mi incuriosisce di più non è tanto anche la mancanza di uomini, ma mi pare di capire dal suo discorso anche l'impotenza delle persone, che delle forze dell'ordine che vengono lì, addirittura mi sta dicendo che questi si presentano con l'avvocato, cioè ma dove stiamo? Alcuni poliziotti, mi è stato riferito, sono stati denunciati. Cioè noi siamo in una situazione anche nella quale questo gioco sul confine tra legalità e illegalità, con atteggiamenti che non si manifestano come veri e propri atteggiamenti, diciamo, criminosi, reati, sì. È un gioco diciamo preoccupante. Perché ovviamente intimorisce anche chi è chiamato a far rispettare la legalità. Ma io dico che non dobbiamo cedere a questo, perché, ripeto, la legalità non è né di destra né di sinistra, qui non bisogna fare commiserazione, non bisogna ovviamente neanche militarizzare le città, perché tra l'altro, rispondo anche alla ricerca che lei citava, io sono dell'idea che la sicurezza nelle città la si garantisce prima di tutto vivendo gli spazi pubblici. con la cultura, con gli eventi, portando le persone nei luoghi pubblici, con l'illuminazione, cioè con tutta una serie di misure e di espedienti per le quali non è necessario andare con le camionette dell'esercito. Ma è chiaro che di fronte a situazioni critiche, e nella stazione di Firenze, ma non solo a Firenze, anche ho saputo Roma, Milano, di fronte a questi fenomeni bisogna agire subito, altrimenti poi sconfinano in situazioni insostenibili, a quel punto si dice. È chiaro. Io allora, nel ringraziare, grazie a Dario Nardella, sindaco di Firenze e Partito Democratico, la ringrazio per essere stato con noi e voglio riallacciare le file del discorso da qui. Dugato, ha sentito, insomma, ritorniamo sulla questione e ovviamente sullo sfondo c'è la domanda che ho posto, se si sentono sicuri gli italiani. È una domanda ovviamente generale. 800 24 00 24, sono tantissimi tra l'altro i messaggi che arrivano. Da dove vogliamo riprendere, Dugato? La questione di questi tipi di reati, ha sentito, molti non sono neanche considerati, dice il sindaco di Firenze, reati di per se stessi, perché non so, una persona ti viene lì, ti chiede soldi in maniera insistente, che reato è? Niente, c'è il rischio addirittura di venire denunciati da parte del poliziotto. Sono questi, lei l'ha legato anche alla crisi, questa tipologia di reati, come anche i furti negli appartamenti. Cioè, si può spiegare con la crisi l'aumento di questa tipologia di reati, come dire il furto della catenina, il borseggio, l'aggressione personale? Allora, in parte, diciamo così, come le dicevo prima, ci sono dei reati che hanno un trend di lungo periodo, come i furti in abitazione, dove mi sento di poter escludere che la crisi abbia un elemento rilevante nella definizione di questo incremento. Per altri, come i borseggi, come parte delle rapine in pubblica via, può esserci, diciamo, invece una componente più importante. Quello che mi sembrava interessante però rispetto a questi, chiamiamoli non reati, che dal punto di vista, chiamiamolo, della ricerca proprio di criminologica, vengono definiti a volte episodi di disordine in qualche maniera, nel senso che non vengono codificati dal codice penale come reati propriamente tali, ma vengono percepiti dalle persone come in qualche maniera disturbanti, diciamo così, nel senso che vengono, e questi sì vanno a influenzare molto spesso la percezione di sicurezza, nel senso che sono, diciamo, tipi di... Ma è chiaro, è chiaro, perché parliamoci chiaro, uno che si sente insicuro nel momento in cui sa che arriva alla stazione di Firenze, Milano, Roma, Trieste, Venezia, metteteci quello che volete, e come dire, sa che deve fronteggiare una situazione di potenziale pericolo, magari non sfocerà in nessun tipo di reato, ma insomma, uno vuole poter camminare tranquillo, no? Per le strade della propria città, o no? Sì, sì, assolutamente, tenendo conto che il rischio che a volte viene percepito in realtà può essere determinato da motivazioni che sono diverse da quello che poi è il rischio reale, nel senso che molto spesso il rischio reale uno a volte tende a sottovalutarlo per assurdo, perché magari non lo conosce, mentre tende magari a enfatizzare dei rischi che in realtà poi i rischi veri e propri non sono. Comunque, dopo la pubblicità con Marco Dugato riprenderemo il discorso anche con le vostre telefonate, cercheremo di capire per esempio se gli italiani sono pronti sempre a denunciare i reati che subiscono. Chiederemo e cercheremo di capire che cos'è il numero oscuro, sveleremo questa terminologia di questa ricerca sulla sicurezza nelle nostre città, e avremo anche ospite il responsabile, uno dei responsabili delle ronde che proprio da oggi partono nel comune di Milano, tra le tante critiche anche del comune di Milano, le ronde per garantire la sicurezza. È questa una possibile risposta? Ronde di privati cittadini per garantire una maggiore sicurezza nelle nostre città. 24 mattino. Allora, stiamo cercando di capire anche col vostro parere se vi sentiate sicuri, se percepiate la sicurezza nelle vostre città. Siamo con Marco Dugato, che è ricercatore di Transcrime, questo centro interuniversitario tra Cattolica di Milano e Università di Trento, e con i tanti ascoltatori vorrei sentire Mariano da Verona. Buongiorno Mariano. La linea, vabbè, lo recuperiamo tra un attimo. Andrea, Firenze da Carlo. Firenze, buongiorno. Buongiorno Milan. Niente, io volevo solo, cioè, ho spomestocato la signorina. Io il sindaco di Firenze ho scritto diverse volte per la sicurezza. Sì. Va bene la sicurezza alla stazione, va bene tutto, perché è veramente un problema. Però io volevo dire che tutta Firenze non è sicura, perché non c'è più polizia per la strada, non c'è vigili urbani. Furti in aumento, scippi, rapine, borseggi, di tutto. Vediamo un po', cioè questa è la sua percezione? No, vabbè, la percezione personale, vediamo. Siccome allora, Marco Dugato ha le statistiche, Firenze da questo punto di vista com'è? Possiamo dire, abbiamo sotto mano qualcosa su Firenze? Sì, guardi, qualche dato di raffronto fra quello, per esempio, la situazione del 2004 e del 2012. Noi abbiamo avuto sicuramente un incremento dei furti in abitazione e dei furti in esercizi commerciali abbastanza, però per esempio come furti con strappo, cioè i famosi scippi, sono in calo. Sono in calo di circa di un 20%, come le rapine in esercizi commerciali sono in calo, quindi in realtà la visione, io capisco anche la visione dell'ascoltatore in qualche maniera, però a volte non sempre corrisponde con quella che poi è la realtà. Sì, anche se molte volte c'è da dire che i reati non vengono denunciati, e questo magari avremo un capitolo tra poco. Intanto vorrei andare da un altro, Carlo dalla provincia di Milano. Buongiorno Carlo. Dica. Sì, guardi, io ho subito 5 furti in abitazione. Alzi un po' la voce però, perché la sento. Sì, io ho subito 5 furti in abitazione e un negozio, perché tra gli anni 80 e 90 era una tabaccheria. 5 furti in abitazione. 5 furti, sì. E adesso sto mettendo le griglie di ferro, abito in una villetta bifamiliare, che mi sembra di essere io in prigione e i ladri liberi, perché io non gli ho mai messo le griglie di ferro. Ma sempre nella stessa abitazione, cioè l'idea di cambiare... No, lo so che è brutto, uno dovrebbe dire si deve sentire tutelato, ma l'idea di cambiare zona non è... Ma no, perché la zona è tranquilla, prendono di mira, fanno 5 o 6, diciamo, furti in una serata, in una nottata, e qui non li beccano mai, poi ci... Io adesso faccio il tassista, poi quando li becco, sento dire denunciati e presi libero, fa 2 anni il processo, questi se ne tornano nei paesi dell'est, sono albanesi o chi che sono, e buonanotte. Oramai è di moda dire andiamo a fare il weekend in Italia, ci facciamo 2 rapinette e ce ne torniamo a casa. E così faccio il tassista se più vuole. Cioè l'idea dell'impunità. Va bene Carlo, questa è chiaro. Quanto è l'ultima bella? Sì. Quando mi ha rubato in tabaccheria ho dovuto pagare pure le tasse sul rubato. Perché il monopolio, quando esce il segreto del monopolio, poi loro sono vendute, capito? Ah, quindi ha dovuto pagare le tasse prima il tabacchi. Io voglio proprio andare in Italia perché sono stufo, sono milanese, nato in Italia, mi sono stufo proprio, che non gli fanno niente. Adesso non ho capito, ma lei fa il tassista o c'ha il tabacchi? C'aveva il tabacchi? No, il tabacchi era dall'80 al 90, no? Adesso poi lasciato, e sai quanti ne vede in un giorno? No, è chiaro, quindi quando dice quando fanno le rapine dei tabacchi bisogna pagare anche le tasse al monopolio sul rubato, perché una volta che è stato consegnato al tabaccaio per lo Stato è venduto, capite? C'è anche questa, vabbè, insomma, queste siamo alla follia pura. Franca da Piacenza, buongiorno Franca. Buongiorno, dunque non parliamo di sicurezza per noi poveri cittadini, sì. Io vivo da sola e ieri notte mi è entrato un ladro in casa servendosi dell'impalcatura per la ristrutturazione del balcone, si è avvicinato al letto, mi ha preso la borsetta dalla poltrona, mi ha tirato fuori il portafoglio, un ladro o 2 o 3 o 10, io vivo da sola. Ma era in casa lei, signora? Stavo dormendo in piena notte alle 5 del mattino. Si sono calati giù dall'impalcatura, sono arrivati su dall'impalcatura e io mi sono svegliata senza accorgermi di niente, avevano preso il portafoglio e la collanina che avevo lì vicino. Sì. Quindi ho avuto il ladro a mezzo metro, un ladro gentiluomo che non mi ha fatto niente, ecco, tutto qui, di sicuro non c'è niente, io mi sento anch'io una carcerata e chi ruba è bello libero. Questa è un po' la sensazione di impunità, c'è un po' per molti, Dugato, però fatemi salutare appunto Luca Longo, che è presidente di Ascom Porta Venezia, l'associazione commercianti e cittadini. Buongiorno Longo e benvenuto. Buongiorno signori. Allora, c'è grande polemica a Milano perché tra l'altro questa mattina so che lei sarà impegnato in una ronda, forse la prima ronda che l'associazione dei commercianti, nonostante il comune abbia detto di essere contrario, voi avete messo in piedi. Perché? Non ho capito che commento ha fatto. Ho detto anche il prefetto era, sì. Tutti contrari. Perché avete tutti deciso contrari. Di fare una ronda o le ronde e contro chi e contro cosa? Siamo nel cuore di Milano, ricorda chi non è di Milano, Corso Venezia è proprio Porta Venezia, voglio dire, a 2 passi dal Duomo, diciamo. Sì, la zona manzoniana, la zona dei promessi sposi, quindi esatto. Figuriamoci se la percezione delle persone, che potrebbe essere interpretata come percezione del pericolo in modo soggettivo, oggi diventa oggettivo. Voglio dire semplicemente che i piani di sicurezza negli ultimi 3 anni a livello nazionale e a livello locale hanno dimostrato la loro debolezza e le dichiarazioni dei signori che stanno intervenendo dimostrano come questa percezione sta diventando dato di fatto. E relativamente poi alle statistiche io non darei molta importanza, perché come si diceva, in effetti poi molte persone non denunciano e la verità è che ora prima solamente il primo piano veniva ingabbiato con le grate di ferro nelle abitazioni, ora arriviamo anche al terzo piano. Ma ecco, voi perché avete sentito questa necessità? Contro chi fate le ronde? Innanzitutto qualcuno che diciamo giornalisticamente ha voluto dare il termine ronde, noi siamo dei cittadini che ci siamo organizzati e praticamente utilizziamo le passeggiate notturne che durano molte ore e tramite queste passeggiate carpiamo informazioni tramite telecamere, macchine fotografiche e trasferiamo tutti i documenti alla magistratura e alla polizia. Per cui sono contro il degrado della città e contro l'abbandono delle etnie, dei profughi praticamente etiope e eritrei che sono abbandonati a se stessi. Sì, questo lo devo dire. Allora, per chi non è di Milano, ci sono per esempio i giardini di Porta Venezia, chiamati quelli i giardini Indro Montanelli, che sono dei giardini straordinari nel cuore di Milano, che sono diventati, e questo bisogna dirlo, un bivacco assolutamente intollerabile per una città mondiale, europea, italiana come Milano, una roba, uno schifo totale. Dovreste andare, per chi capita a Milano, a fare un giro. Un bivacco incredibile, cioè, ma prima di tutto per le stesse persone che sono lì, che vivono abbandonate, sono soprattutto etiopi e eritrei, purtroppo c'è questa situazione da gestire di molti anche aventi diritto allo stato di profughi, che vivono così, vivono nel parco, una situazione davvero incresciosa alla quale voi avete voluto in qualche modo mettere rimedio così. Però mi faccia capire, Longo, che cosa percepite di insicurezza per cui c'è bisogno di fare delle ronde, o le chiami come vuole, delle passeggiate notturne? Allora, l'insicurezza si tocca con mano. L'insicurezza, come si diceva anche prima sempre con gli interventi, purtroppo sono problemi legati a furti, ad aggressioni, sono situazioni che vanno anche oltre e spesso noi non vogliamo che questo poi venga tutto rigettato su questi profughi. Infatti la nostra azione di appunto di personaggi che vanno in giro di notte, quella proprio anche di fare da mediatori, da cuscinetto tra la popolazione italiana e questa dei profughi. Lo so, però le autorità, come detto, sia comune sia prefetto, insomma, questa idea del risolvere da solo le questioni non è molto piaciuta. Ma rimanga con noi, c'è il traffico, poi riprendiamo da Angelo da Firenze, da Marco Dugato e da Luca Longo. Eccoci qua, Angelo da Firenze, buongiorno. Buongiorno, io volevo rispondere al sindaco Nardella che sostiene che non ce ne sono pochi. I zingari sono i rom, come li volete chiamare, sono intolleranti, ce ne sono tantissimi. E poi un altro dato di fatto, io sono un ex addetto alla sicurezza. Ma lo sapete quante persone sono andate in pensione e non sono state rimpiazzate? Ma è chiaro, polizia, ma guardi che carabinieri. Angelo, una delle prime risposte, secondo molti, lo scriveva anche oggi Michele Serra, proprio ha fatto la maca su Repubblica sulle ronde di Milano, dicendo che è la prima risposta spesso alla mancanza di un welfare che non garantisce appunto forze dell'ordine adeguate. E quindi la gente pensa, magari erroneamente, ci penso da solo, è sbagliato. Perché uno stato di polizia e democrazia e sicurezza e tranquillità per chi va a spasso. Dio, stato di polizia no, diciamo. Uno stato in cui uno stato in cui le forze dell'ordine siano presenti, no? Ma esatto, è chiarissimo. Esatto. E danno democrazia. Le posso dare un ultimo dato? Dica, ma allora faccia conto che in circa 12 anni fa c'erano dalle 5 alle 7 macchine di polizia che giravano sul territorio di Firenze, sì. Altrettanti carabinieri, oggi a malapena ce ne sono una o due. E quando succede che devono fare l'intervento, che devono rientrare per fare l'intervento, non riescono nemmeno a rimpiazzare. È chiaro. quindi il territorio rimane scoperto. No, ma è chiarissimo. Angelo, la ringrazio. Vorrei tornare da Marco Dugato a partire da questo ultimo dato per raccontare anche il fatto che molti, come molti italiani, molte persone vittime di reati non denunciano, e ci aiuti a capire che cos'è il numero oscuro e il perché non denunciano, forse anche perché hanno una sfiducia, ma non una sfiducia personale, ma perché il personale è poco e quindi da parte anche delle forze dell'ordine non si riesce a perseguire reati, per cui uno dice ma lasciamo stare. Sì, allora guardi, per numero oscuro molto brevemente si intende quella quantità, quella percentuale di reati che vengono subiti dalle persone ma non vengono poi riportati alle autorità di pubblica sicurezza in qualche maniera, quindi non vengono denunciati. In realtà l'entità di questo numero oscuro cambia molto a seconda del tipo di reato. Abbiamo dei reati che vengono quasi per la quasi totalità denunciati, a parte gli omicidi, ma anche per esempio i furti di auto, perché appunto per il problema dell'assicurazione vengono solitamente quasi sempre denunciati. Ce ne sono altri invece che o per una questione di sfiducia, come dicevamo prima, e questo sì può essere un elemento variabile, nel senso che molto spesso non è neanche legata poi all'attività reale delle forze di polizia, è più legata anche qui alla percezione che le persone hanno della capacità delle forze di polizia di intervenire sul territorio, e che molto spesso è anche legata magari alla situazione, alla percezione che le persone hanno, alla fiducia che le persone hanno nella situazione, nell'istituzione generale, quindi nello Stato italiano, via dicendo. Sì, quindi è anche molto legata ha sentito anche che molti ascoltatori dicono ma tanto non succede niente, ed è vero, ma non perché non si voglia perseguire i reati, ma perché il sistema è fatto in modo per cui conviene in alcuni casi delinquere, come quell'ascoltatore che ci ha detto ma sì, vengono qui, dicono facciamo due o tre rapine, tanto non succede nulla. È vero, e questo cosa genera, Dugato? Sfiducia nei cittadini, dice perché io dovrei andare a denunciare, che ne so, il furto di una catenina se tanto non lo beccano mai, no? Sì, diciamo che a volte c'è anche una scelta, chiamiamola razionale, che viene fatta in cui si dice l'entità per esempio del furto, magari il furto è stato solo tentato, non lo vado a denunciare, quindi questo anche questo incremento. È chiaro, Però a volte, come dicevo prima, non è tanto legato poi all'effettiva capacità delle forze di polizia, nel senso che a volte le forze di polizia intervengono e hanno dei risultati che sono più grandi rispetto a quelli che vengono percepiti. C'è anche questo elemento che a volte sfugge un po'. Sentiamo Domenico da Reggio Calabria, ci chiama. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Senta, io volevo segnalare, al contrario di quello che si può pensare, qua è un'isola felice per quanto riguarda la microcriminalità. Un'isola felice. Sì, reati che riguardano la microcriminalità come scippi, borseggi, sono quasi assenti, magari sono più accentuati i reati per quanto riguarda atti incendiari, se roba qua, magari notturne. No, però per quanto riguarda sulla strada, proprio sì. non succede mai niente. Non ci sono borseggi, ma guardi, la indicazione è interessante, perché Dugato, credo che ci sia una classifica anche di questi, io la leggo dalla vostra ricerca, cioè nel 2012 Milano è la prima per furti, davanti a Bologna, Torino e Firenze, mentre le rapine, la città più colpita è Napoli, davanti a Catania, Milano e Palermo, mentre Vibo Valentia ha il record di omicidi sia tentati che consumati. Dugato, l'ascoltatore ci dice da Reggio Calabria, lì magari atti incendiari eccetera, legati immagino anche alla criminalità organizzata, ma non scippi, borseggi, è sì, così? Esatto, abbastanza, nel senso che quello che in realtà vi emerge un po' da questa, chiamiamola, mappatura che abbiamo fatto, e che tra l'altro grazie a una collaborazione col Ministero dell'Interno probabilmente svilupperemo ancora di più nel corso di quest'anno, è l'idea di dire non la situazione di sicurezza non sono uguali su tutto il territorio italiano, ci sono delle forti differenze che variano, come diceva lei giustamente prima, da reato a reato, ci sono zone più colpite, più interessate per vari motivi, per esempio il nord-est di solito è più colpito dai furti, anche perché magari è più attraente, più appetibile rispetto ad altre zone d'Italia, perché è più ricco, perché è più benestante. Ci sono delle tradizioni, chiamiamole così, purtroppo quella delle rapine è più storicamente radicata in città come Napoli, Catania, quindi c'è diciamo un trend di lungo periodo, per cui anche se magari sono in calo, sono in aumento relativamente costante rispetto ad altre cose, sono semplicemente di più in numero totale. Allora, Luca Longo, ripeto, presidente dell'associazione commercianti e cittadini di Porta Venezia, mi faccia capire tecnicamente, questa mattina per esempio siete impegnati in una passeggiata, in quanti siete e cosa fate, in quanti partite, in quanti girate? Sì, allora noi abbiamo anche predisposto un nucleo anticontraffazione, proprio per rispondere alla mancanza del Comune di Milano sul sì, perché ci sono molti venditori ambulanti davanti ai negozi di Buenos Aires, di questo la zona metro. Principale, che è la cosa più vergognosa. Sì. Siamo quattro persone in questa in questo momento. Girate questo e cosa fate? Già la presenza è un ottimo deterrente. Siete visibili con una pettorina, con qualcosa? Esatto, abbiamo una pettorina, abbiamo un numero di telefono al quale comunque le persone possono fare segnalazioni e soprattutto comunque per quanto riguarda la nostra presenza in zona è fondamentale e abbiamo notato da ieri ad oggi, cioè in poche ore, che c'è moltissima partecipazione richiesta. Comunque questo è purtroppo un dato che a me non piace, perché sinceramente la dimostrazione di quello che dicevate voi, che è un flop per tutti, cioè nel senso che i piani di sicurezza, i soldi che vengono investiti per la sicurezza in Italia purtroppo sono sbagliati. Però, o sono pochi. Senta, ma secondo lei, onestamente, lei forse non vorrebbe fare questo tipo di assolutamente, azione, ma è questa la risposta giusta? Perché in teoria per molti è la risposta sbagliata a un problema che c'è. Ha un problema che c'è. No, guardi, allora dire cosa è giusto e sbagliato secondo me è davvero difficile. Intanto dei cittadini che ieri sera alle 8 hanno terminato di lavoro e ancora ed oggi sono ancora in strada per difendere la legalità. Sì. Ovviamente sono in strada per aiutare altri cittadini e si sono dovuti organizzare per rispondere a quello che avrebbe dovuto fare lo Stato e avrebbe dovuto fare il Comune. Mm-hmm. Quindi diciamo che chi critica queste cose dovrebbe semplicemente criticare chi non le fa e non chi invece le fa sinceramente anche. Va bene, staremo a vedere come vanno queste ronde, o meglio passeggiate. Dugato, ma siamo in conclusione, c'è un modo per consultare questa pubblicamente questa ricerca? Allora, sì e no, nel senso ci sono delle informazioni che ci sono sul nostro sito, che è www.transcrime.it, e lì diciamo si può trovare un riassunto, qualche informazione. Per tutti che non capiscono, transcrime, scritto, transcrime.it, ok? Esatto, e penso che per fine anno, proprio perché appunto in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno ci sarà di stiamo più. Predisponendo una nuova fase di ricerca, probabilmente uscirà va qualcosa bene. Nei prossimi. Allora, io ringrazio Marco Dugato, grazie a Luca Longo. Dopo il giornale radio delle 9 parleremo di quello che succede in Medio Oriente. Israele con l'esercito è entrato nella striscia di Gaza e ne parleremo. State con noi. 24 mattino. L'attualità internazionale, ovviamente tutti i giornali italiani oggi aprono sul disastro aereo che c'è stato, è sempre più probabile del missile, l'ipotesi del missile che abbia centrato questo aereo della Malaysia Airlines che da Amsterdam volava verso Kuala Lumpur e che è stato abbattuto, ormai si può dire così, con 280 morti. Se riusciremo in coda di trasmissione daremo qualche aggiornamento. Intanto però vogliamo parlare dall'altra grande notizia partire dall'altra grande notizia internazionale che da giorni è sulle prime pagine dei giornali, vale a dire la situazione tra Israele e la striscia di Gaza. Come avete sentito durante le nostre cronache, l'esercito israeliano è penetrato nella striscia di Gaza, in quella che l'ambasciatore Avi Pazner, che è l'ex ambasciatore israeliano in Italia, portavoce del governo israeliano in Italia, ci aveva detto non era esclusa. Ambasciatore Pazner, buongiorno. Buongiorno. Lei ci aveva detto non è esclusa la possibilità dell'ingresso delle truppe via terra. È avvenuta. Non è questo un punto di non ritorno di questa crisi? No, è avvenuto perché non c'era alternativa e già quando abbiamo parlato alcuni giorni fa io pensavo che se Hamas continua a rifiutare il cessato il fuoco, l'ha fatto per tre volte, non ci sarà altra alternativa, perché noi vogliamo far tacere i missili che cadono su Israele e vogliamo chiudere i tunnel che portano dei terroristi addentro di sì, però ambasciatore, poi cosa succederà? Presumibilmente poi in un tempo non identificato vi ritirerete e tornerete a uscire fuori e i tunnel verranno nel caso ricostruiti e ci sarà questa spirale continua. Io credo che questa volta non ci ritireremo senza garantie sulle quelle due cose che le ho menzionato. Uno, i spari di missile su Israele, e due, la distruzione dei tunnel che vanno da Gaza a Israele. Ci sono altri tunnel che vanno da Gaza a Egitto. Questa già è un affare egiziana. Sì. Io parlo dei tunnel che vanno verso Israele. Che vanno, certo, perché quelli col confine sud per l'Egitto non potete certo voi gestire questa situazione. Ambasciatore, mi lasci salutare Ugo Tramballi del Sole 24 Ore, che anche lei conosce molto bene come i nostri ascoltatori. Ugo, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Ugo, intanto si è detto e si è scritto da giorni il rischio della possibile invasione via terra. Che cosa significa questo nello scenario di guerra? Come lo possiamo leggere questa escalation militare? Beh, intanto permettimi di salutare l'ambasciatore Pazner, che è l'uomo che 15 anni fa negoziò l'inizio delle relazioni diplomatiche fra Vaticano e Stato di Israele. L'ambasciatore non ha torto, Israele era disposto a raggiungere una tregua. Le richieste che ancora ieri avanzava Hamas erano da parte vincitrice del conflitto, erano richieste troppo ambiziose. Hamas non è il vincitore di questo conflitto, in realtà alla fine non lo sarà nessuno, ma certamente non lo è Hamas. Quindi Israele è un'altra alternativa, ma che ho la sensazione che sia stata quella che ha fatto scattare questa decisione, che in realtà era molto sofferta all'interno del governo di Israele, perché Bibi Netanyahu aveva capito che dal punto di vista diplomatico e politico non gli conveniva, sono stati quei 13 miliziani che ieri mattina hanno attraverso un tunnel erano entrati in Israele, sono stati presi subito, ma questo credo sia stato ancora più dei razzi, sia stato quello che ha spinto, che ha fatto cambiare, anche perché questo ha cambiato un po' i termini del problema della battaglia in sé, nel senso che fino ad ora Iron Dome era riuscito tatticamente a impedire, a rendere praticamente inutili, quasi inutili. Sì, ricordiamo che anche stamattina c'è stata una pioggia di razzi lanciati da Hamas e sono stati tutti intercettati, quelli almeno che erano verso obiettivi civili e verso quelli le città. Quelli che stavano raggiungendo i loro le città, civili, esatto, altri, no? mentre invece sono stati lasciati andare i razzi che sono caduti in zone aperte, non abitate. Questo per dire che la superiorità militare israeliana certamente è in dubbia, però effettivamente tu hai citato questo episodio di cronaca, che magari è sfuggito ai più, con alcuni miliziani di Hamas che erano riusciti a penetrare nello Stato di Israele uscendo dalla striscia di Gaza e sono stati fermati dall'esercito israeliano. Ambasciatore, è stato questo uno dei motivi che ha spinto, secondo lei, l'esercito a dire bisogna intervenire? Sì, assolutamente Ugo ha ragione, perché ieri ci siamo svegliati con l'immagine dei 13 terroristi che hanno potuto entrare in Israele via un tunnel, con evidentemente la volontà di causare una strage in Israele, è l'unica ragione. E noi abbiamo visto allora che non c'è più altra alternativa, perché hanno fallite tutte le trattative di arrivare a un cessato il fuoco. La nostra delegazione era tutto il giorno ieri in Egitto, e ogni ora c'era un'altra domanda del Hamas che era completamente irrealistica. Allora abbiamo visto che Hamas non vuole fare un cessato il fuoco, e non ci è rimasta altra alternativa perché questo è un pericolo per ogni israeliano. Mi fa capire quanto è chiaro che non si può dare una tempistica, e infatti l'esercito israeliano dice non c'è una data di chiusura di questa operazione, ma presumibilmente quanto potrà prendere tutta l'operazione militare che vi siete presi a Gaza? Cioè, perlomeno certamente alcuni giorni, perlomeno, perché lei non lancia un'operazione così senza avere dei risultati, e per avere dei risultati bisogna un po' di tempo, e anche uno non sa come si sviluppa questo. Hamas è ben organizzato, ha un esercito forte, ha 6 reggimenti a Gaza, non è un nemico facile, Allora, puoi prendere tempo questo, puoi prendere tempo anche perché noi avanziamo con molta cautela, con molta prudenza per evitare al massimo che si può le perdite nelle vite civili. Ecco, questo è un punto che lei ha introdotto. Ugo Tramballi, qui da molti giorni persone che criticano, arrivano tanti messaggi anche critici che tra poco leggerò sulla posizione israeliana, molte persone fanno notare lo squilibrio di vittime. Lo so che è una contabilità brutale e lo so che più volte abbiamo spiegato che semplicemente Israele è superiore militarmente, intercetta i razzi che ucciderebbero gli israeliani, mentre invece va poi a colpire e non trova grandi resistenze per la potenza militare che ha. Però Ugo Tramballi, ovviamente sono ancora negli occhi anche le vicende come quella dei bambini uccisi sulla spiaggia a Gaza. Ora, come porsi nel racconto di una guerra del genere che vede uno squilibrio totale di vittime da una parte all'altra? Come giornalista è il conflitto peggiore nel quale porsi, perché sei comunque sempre attaccato da una parte o dall'altra. E questo è il problema di tutti questi, da anni ci sono questi saltuariamente questi conflitti, questo conflitto, questa accelerazione del conflitto fra Israele e Hamas, e tutte le volte la questione è sempre regolarmente la stessa e sempre lo sarà. Cioè, Israele ha diritto di difendersi dai razzi dei palestinesi, ma fino a che punto Israele può esercitare questo diritto? Spesso Israele supera di gran lunga la moralità del suo diritto di difendersi, e credo che questo sia un'arma potente nelle mani dei palestinesi. Infatti Israele in qualche modo, un paese così moderno, un paese che ha le start-up, un paese che in questo mese, mentre si combatteva dal rapimento dei 3 ragazzi in poi, ci sono stati $1 miliardo in investimenti sulle start-up, di dollari stranieri, di investimenti stranieri sulle start-up, il governo Renzi diventerebbe felice di per questa cosa. È un paese che poi si fa dettare la linea politica e morale da Hamas, perché questa alla fine sotto è una faida. Ieri ovviamente, come immagino tutti, avevo scritto già un pezzo nel quale appunto sostenevo che se non stamattina, entro i prossimi giorni sicuramente ci sarebbe stata una tregua. Evidentemente ho dovuto cambiare il pezzo e scriverne ben un altro, ma potrei benissimo riscriverlo anche stamattina. No, ma è chiaro, ogni giorno cambia. Una tregua ci sarà, bisogna capire. Fatale. E sarà assolutamente lo stesso. E vorrei sottolineare un elemento molto importante. 5 anni fa, quando scoppiò Piombo Fuso, cioè la più importante al momento fino ad ora, la più importante operazione militare israeliana a Gaza, quella che durò 23 giorni, l'obiettivo era distruggere Hamas, obliterare Hamas. Questa volta, ieri, avrete notato che Bibi Netanyahu dice, la nostra, ecco, anche i militari, il nostro obiettivo non è distruggere Hamas, ma è semplicemente distruggere le infrastrutture. Allora, devo rispondere a tanti ascoltatori, mamma mia, come dice Ugo Tramballi, comunque la fai e comunque la metti. Ecco che ovviamente subito tutti criticano, come tutti, perché non chiedi dei bambini uccisi, cosa ti frena? Niente mi frena, cari ascoltatori, e infatti chiedo queste domande anche ovviamente all'ambasciatore Avi Pazner, se mi date il tempo. Ambasciatore Pazner, allora, lei ci dirà adesso che Hamas si rifugia dietro i civili, nascondono le armi dove ci sono i civili, ma quello che è successo anche ieri nella spiaggia di Gaza, dal racconto di tutti i giornalisti, c'erano 4 bambini che giocavano a calcio, a nascondino, insomma erano lì tranquilli ed è arrivato appunto un missile e sono morti, sono stati uccisi. Perché così tanti bambini uccisi, ambasciatore? Devo dire che noi siamo i primi a lamentare questa tragedia, perché noi avevamo bombardato un deposito di missili e i bambini hanno corso sulla spiaggia dove erano giocando, e per errore, per tragico errore, la gente che bombardava dal mare aveva pensato che sono dei terroristi che si scappano di questa esplosione. È un tragico errore, è terribile l'uccisione dei bambini, che siano palestinesi o israeliani, è terribile, e noi facciamo tutto ciò che possiamo perché non ci siano degli errori così. Però lei ha menzionato con ragione che noi abbiamo un grossissimo problema e che Hamas prende come scudi umani donne, bambine, e vecchi, e questo è un grosso problema. Ma anche però mi scusi, ambasciatore, dove possono scappare? L'abbiamo già detto, la striscia di Gaza è una striscia chiusa, al nord e a est c'è il confine con Israele, al sud dell'Egitto. Anche volessero scappare i civili, dove vanno? No, noi non attacchiamo le città a Gaza, possono andare in città, ciò che l'operazione militare è intorno alle città. Noi abbiamo domandato di evacuare le zone periferiche dove cominciano i tunnel, e allora loro possono andare e sfuggiarsi nelle città. Le città non sono attaccate, i grandi concentramenti dei civili non sono attaccati. Noi già 2 o 3 giorni abbiamo pregato ai cittadini di lasciare quelle zone dove cominciano i tunnel, e Hamas aveva chiesto: non andatevi, rimanete lì, così gli israeliani non possono entrare. E questo, quando parlo di scudo umano, è una politica, non è un caso qui, un caso lì. Però è una politica, certo, ma colpire, per esempio, se Hamas mettesse delle armi in una scuola, come pare sia successo alla scuola dell'ONU, è legittimo colpirla? Cioè è legittimo dalla parte di Israele, oppure si pone il problema? Che diamine, è pur sempre una scuola, ci sono dei, magari ci saranno dei civili, o è un obiettivo colpibile? No, io lo dico come lei ha detto, è la ONU, la UNRWA, che ha detto che Hamas ha nascosto dei missili in una scuola. Io credo che è legittimo colpire quando non ci siano dei bambini nella scuola. La scuola stessa colpire, sì, però a condizione che non ci siano dei bambini o dei civili in questa scuola al momento del colpi. Per esempio, nella notte. La scuola, sì, la scuola è piena di missili e di razzi, sì, allora si può colpire. Sì. È un oggettivo militare, però noi dobbiamo assicurare, la nostra responsabilità di assicurare che non ci siano lì bambini e civili. Questo certamente. Allora, io ringrazio l'ambasciatore Avi Pasen, perché gli ultimi 2 minuti, Ugo Trambali, li vorrei dedicare alla Russia. Tu sei anche un grande esperto di Russia. Grazie, ambasciatore Pasen, per essere stato con noi. Ugo, cosa potrà succedere invece ora sul fronte Russia-Ucraina, che è diventata purtroppo con questa tragedia un fronte mondiale? Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU alle 16 si riunirà, questa è l'ultima notizia. Intanto è la domanda che si fanno tutti, Ugo: chi può avere abbattuto questo aereo? Pare davvero i combattenti filorussi, e che cosa potrebbe succedere quindi ora? Beh, dai notiziari da ieri a questa mattina sembra sempre più chiaro che sia stato un errore, penso un errore, non un atto voluto, un errore dei miliziani filorussi, fatto con armi date dai russi, perché solo la Russia aveva quelle armi, a meno che non gliel'abbiano dati i siriani, perché i siriani appunto sono stati riforniti di queste armi, ma per altri scenari. Credo che sia un punto pesante a favore di Putin, perché comunque le armi, quei miliziani, quei separatisti esistono, possono operare solamente grazie alla protezione della Russia, e quindi sarà Putin ad essere nell'angolo. Probabilmente ci sarà un incremento delle sanzioni, e se è vero che queste sanzioni costano molto anche all'Occidente, soprattutto all'Europa, che fa i principali affari, anche all'Italia, che fa i principali affari con la Russia, è anche vero che comunque queste sanzioni andranno contro la Russia, perché il tempo non è a favore della Russia. Infatti si racconta anche del grande gelo, pare, in una telefonata ieri tra Obama e lo stesso Putin. Ricordiamo che c'erano anche 20 vittime americane, e quando gli americani si sentono toccati nel cuore, anche da questo punto di vista, non stanno fermi. Sì, però c'è anche un altro gelo a favore della Russia. Io ho sempre avuto la sensazione in queste settimane di trattative, finte trattative, ma di operazioni sul campo militare che non smettevano, che Putin stia aspettando di mettere in campo il generale Inverno. Non è il primo russo che fa uso del generale Inverno, certo. Cioè, appunto, quando Napoleone invase la Russia, poi quando lo fece Hitler, e mi riferisco al gas. In questo momento la questione del gas è molto importante, ma è un po' a latere, perché è estate, tutti combattono in maglietta, e questo problema non c'è. È chiaro che poi d'inverno il timore che l'utilizzo dell'arma del gas, del ricatto del gas, chiaramente gli approvvigionamenti sono importanti. Ti devo fermare, Ugo, perdonami, torneremo magari lunedì su questo tema. Mi fermo qui con tutti, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Turri ed Elisabetta Fusconi in redazione, e l'alpino Peter Bescapè che se ne va in vacanza. Noi invece lunedì siamo qui 6:30.